Cosa hai trovato in lui di tanto bello? Non so. Cosa hai trovato in lui di tanto bello che io non ho? Ha due mani, due occhi, due labbra come me, come me. Ma quegli occhi han rubato l'amore che era in te. Cosa hai trovato in lui che t'ha cambiata? Non so. Ora tra le mie braccia solo un ricordo terrò. Il mio amore era dolce e sincero, la mia vita sempre in te. Quel che hai trovato in lui, cos'è? Il mio amore era dolce e sincero, la mia vita sempre in te. Quel che hai trovato in lui.